America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Yokohama, Mario Platero. Yokohama, grande porto del Pacifico in Giappone, 3 milioni di abitanti. Qui si è chiuso il viaggio asiatico di Barack Obama con un bilaterale con Tokyo, ma soprattutto con la partecipazione del presidente al vertice dell'APEC, Asian Pacific Cooperation, una organizzazione multilaterale che ha come obiettivo quello di liberalizzare il commercio nel bacino del Pacifico. Ho con me Stefano Carrer, che è stato corrispondente del Sole 24 Ore da Tokyo. Buongiorno a tutti. Allora Stefano, parliamo di APEC. Il vertice si è chiuso, il presidente Obama è già ripartito prima di noi del gruppo stampa che partiremo un pochettino dopo, ma qual è il risultato più importante secondo te che si è raggiunto qui in questo vertice per l'apertura del bacino del Pacifico, che in fondo è un po' una minaccia per noi europei? Siamo tagliati fuori da questo gruppo. Cosa hanno fatto? Ecco, io credo che ancora di per sé l'APEC come forum economico resta abbastanza inferiore all'attesa, però la novità che forse ha cominciato a manifestarsi qui è che all'interno dell'APEC c'è un gruppo di 4 paesi che hanno già dato vita a una partnership molto più avanzata in termini di integrazione economica, e questi paesi sono Singapore, Nuova Zelanda, Cile e Brunei, e attorno a questa partnership si è manifestato un grande interesse non solo da parte degli Stati Uniti, che l'avevano già manifestato qualche mese fa, era stato proprio il presidente Obama a novembre dell'anno scorso a dire che gli Stati Uniti avrebbero iniziato i negoziati con questa partnership, ma adesso anche il Giappone ha detto, seppure con qualche riserva, che è pronto a unirsi a questa partnership, a questi negoziati. My mother brought me to Kamakura, where I looked up at that centuries-old symbol of peace and tranquility, the great bronze Amida Buddha. Bene, in questa visita giapponese Barack Obama non ha soltanto parlato di affari e di politica, ma è riuscito anche a fare un piccolo pellegrinaggio personale a Kamakura, dove c'è uno dei più importanti Buddha asiatici, un Buddha costruito addirittura mille anni fa. Perché ci è andato? Perché quando lui era un ragazzino, e abbiamo visto nella tappa in Indonesia l'importanza per Obama di alcune di queste regioni, la madre Stanley Ann Durman lo portò a visitare questo Buddha qui in Giappone. Ricordiamo che la madre è una figura chiave per Barack Obama. Intanto è una donna straordinaria, perché è sempre stata legata un po' al simbolo della nuova frontiera. Dal Kansas coi genitori si muove verso ovest, si muove verso la California, verso Seattle, e poi addirittura fanno il balzo, pensate, stiamo parlando degli anni 50, il balzo verso le Hawaii, che si era appena aggiunto agli Stati Uniti come il 50° stato. Ecco, questo Buddha ha un significato simbolico anche per il Giappone. Stefano, puoi raccontarci un po' qual è il rapporto dei giapponesi di oggi con simboli del passato, con il buddismo, con lo shintoismo? Qual è la religione giapponese? Ma diciamo che il grande Buddha di Kamakura è proprio uno dei simboli dell'arte, della cultura, della spiritualità giapponese. Fa parte del versante buddista della loro cultura e della loro spiritualità, che il buddismo è arrivato dal continente asiatico, in questo arcipelago, in questa isola, mentre c'è la religione autoista, più legata ai riti della natura, più legati al culto della famiglia imperiale. Però per i giapponesi non hanno nessuna difficoltà, come dire, a realizzare un sincretismo tra la tradizione buddista che è arrivata dal continente asiatico e questa loro tradizione autoctona. Ecco, queste visite che Barack Obama ha fatto da ragazzino in Indonesia, dove è cresciuto, poi in un paese come il Giappone a vedere un Buddha, hanno lasciato il segno nella crescita poi di Barack Obama. E proprio ieri abbiamo visto in un briefing alcuni funzionari della Casa Bianca, altissimi funzionari della Casa Bianca, che hanno parlato in anonimato, ma che ci hanno un po' spiegato la strategia di questa amministrazione nei confronti dell'Asia, una strategia che punta su questa parte del mondo come punto di sviluppo numero uno, come punto di riferimento numero uno su cui investire tempo, risorse sia economiche che politiche. E c'è una confluenza molto particolare, ci spiegava Tom Donilon, il nuovo capo del Consiglio per la sicurezza nazionale alla Casa Bianca, che gli Stati Uniti sono un paese che si affaccia sul bacino del Pacifico, dunque un paese con degli interessi diretti in Asia, ma in questo momento sono anche un paese che ha il primo presidente del Pacifico. Lo stesso Barack Obama si è definito il primo presidente del Pacifico, e da questo viaggio ci siamo resi conto che la presa di Barack Obama sulla popolazione è una presa molto forte. Per esempio in India questo incontro che lui ha avuto con i ragazzini nella scuola di cui abbiamo raccontato ha avuto un impatto fortissimo sull'opinione pubblica indiana. Le televisioni hanno trasmesso in diretta questo incontro, insomma l'immagine di un presidente così amico a contatto proprio col popolo, la moglie tra l'altro molto importante che lo accompagnava in questa visita, hanno colpito gli indiani. E l'Indonesia, devo dirvi, la cosa che mi ha colpito di più di questa tappa indonesiana è stato l'entusiasmo con cui gli indonesiani hanno accolto Barack Obama. Era come se fosse uno di loro, questo grande orgoglio di uno studente che è cresciuto nelle loro scuole e che è diventato presidente degli Stati Uniti. Ecco, l'insieme di queste due cose, un presidente che ha una presa diretta, emotiva, in cui alcuni asiatici direttamente si riconoscono in lui, e questa continuità, perché poi non dimentichiamolo, è partito con Bill Clinton, che fece tra l'altro il primo vertice dell'APEC nel 93 a Seattle, è continuato poi con George W. Bush e ora con questa amministrazione, c'è stato un crescendo nel rapporto fra gli Stati Uniti e l'Asia. Allora Stefano, abbiamo visto il presidente Obama ha avuto una forte presa in questo suo viaggio asiatico su alcuni dei paesi, abbiamo parlato di India e Indonesia, e il Giappone è un po' più ambivalente oppure ugualmente entusiasta? Ma io direi che il Giappone è ambivalente, nel senso che da una parte tutti i giapponesi riconoscono la necessità di approfondire l'alleanza con gli Stati Uniti e di dargli contenuto di fronte a nuove sfide che sono legate all'ascesa della potenza non solo economica della Cina, di fronte a nuove sfide come quella di una Corea del Nord dotata di arma nucleare. Al tempo stesso però il problema principale di questa alleanza è quello della ridislocazione delle truppe americane, del dispositivo militare americano complessivo nella regione, in particolare a Okinawa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico asiatico, ultima tappa di questo lungo viaggio, nuova vera grande frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Obama è tornato a casa, ma riparte per Lisbona fra pochi giorni per il vertice NATO del 18-20 novembre. Insomma, non si sta mai fermi. Brutta notizia però per gli Arcade Fire, cui dedichiamo la canzone di oggi. Avrebbero dovuto suonare nella capitale portoghese il 18 novembre, ma il concerto è stato cancellato per motivi di sicurezza. Arcade Fire, Wake Up! Ma è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.